avrei fatto a favorire, pensavo a venire sull'unito. No, già, ma sto aggiustando il PL. Lo stai? Mi sto aggiustando il PL perché secondo un autocapo non faceva contatto bene. Allora ho tagliato e ho rifatto tutto nuovo, solo che mi è rimasto dentro il PL tutta la plastica. Un casino, cazzo, mi ci ha dato anche il cacciavite in mano per levare la plastica. Allora l'ho levato con una vite piano piano, per carità. Va. E io ho fatto 3 o 4 spezzoni, non ce n'è uno che ha vitti, lo sai, con i PL nuovi che ci sono. Non c'è uno spezzone che ha vitti. La carità. Tutto un travaglio fatto di battere. Ah, beh, Luca, come è andato a Natale? Ehi, come vuoi che vada? Va bene, dai. Aspetta un attimo, già che devo pulire qua, sennò Marina mi chiude, aspetta. Prova. Ah, va bene. Luca, con questa antenna come ti sta arrivando i segnali lì? Solito già. 9:30? Sì, sul 3. Che regala. E vedi, anche la Game Master era una buona antenna. Sì, da Puglia. E vabbè, sono troppo vicini già. Non so, lontananza rende. Già rende, sì. Già rende. Ho capito. E al Pornatore con 5 watt arrivo Santiago 8. Va bene, vabbè, sei in alto. Con 5 watt, se ne do 10 arrivo più forte, normale. Poi se uso l'apparecchio, quello, il Cobra, con quello lì arrivo 9,5. Già va bene. Uia, andiamo ora, andiamo. Certo. Uia, ia. Oh, per Capodanno, torna a mangiare, non vi grido. Davvero? Ci sono abbondata a Natale. Tra la notte del 24-25 e il giorno dopo, cazzo, mi sono fatto calamela. Sono due. Oggi un po' meno, oggi a pranzo mi sono mangiato un pezzo di pasta al forno, un pezzo di agnello e frutta. Ieri notte sai cosa mi ho fatto da mangiare? Eh? Minestrina. ci vuole. Ma l'ho mangiato altro, era troppo pesante, cazzo, ho mangiato di tutto e di più. Non mancava nulla, ci avevamo anche il panettone, quello scorso, come si chiama? Lasciami pensare, quello verde, come si chiama? Pistacchio. Cazzo, costa un po' di soldi quel panettone, non le vale. Quello è Tre Marie, dice che è buono. 32 euro costa con la pistacchio. Siamo di c'è. Ti dico la verità, il cugino di questa amica mia ha portato da Nuoro il panettone sardo, quello fatto a Nuoro. Cazzo, non sai quanto era buono, io preferivo quello lì di quello che hanno pagato 32 euro. Preferivo quello. Guarda, era così buono, con i pezzettini di cioccolato piccolini in mezzo, tutto pieno di cioccolato, acqua era all'interno. Ma così buono, così delicato. Questo qua era troppo dolce, quello al pistacchio. Sì, ma 32 era un pandoro, un panettone cos'è? Non dico, esagerati proprio. E tanto mi già. Capodanno c'è. E poi, come si chiama? Poi c'è l'Epifania, boh, ho finito tutto, da ora. C'è la testa che non vuole fare, ma anche bisogni. Quando siete dispari vi tira verso casa. Non vuole stare giù. Dai, sono anche cane di Marina, cane mio, tutti i cani. Buonasera. Buonasera a lei, mi auguri. Buonanotte a tutti, ben ascoltati. Sto andando col garage, come sta andando? Vedo da un bel che non lo uso. Benissimo. Anche da te, Luca? Sì, perfetto. Solito segnale, perfetto. Ultima radio. Con che microfono stai usando, Claudio? Col Tandem più 3. Tandem più 3 ce l'ho a metà. Ascolta, questa è la potenza minima, però sto andando con 5 watt e 10 modulati. Guarda a vedere se vedo la potenza massima. Così è cambiato qualcosa. Prova tutte e due le posizioni che lo stavo guardando. Ah, questa è la potenza minima. Perché è stato modificato. certo, questa è la potenza minima. Potenza minima della radio e questa è la potenza massima della radio. Cambia qualcosa? È un pelino, sì. È prima, allora, quasi 9.30, prima del più e dopo il più. Era a te, Luca. Anche a me un pelino sale, poco, sei sul più spaccato. Così in questa posizione, sul più, perché lo farò sapere a Fabrizio, allora, così praticamente sono sul più, così sono sul più, e invece così sono prima del più, confermi? Poco poco, non è che cambia molto, Vabbè, ottimo per la truppa, dai. Gappa, perché la radio buona è già. Sembra Gabi le BC60, fa lo stacco come le BC60. Andavano bene questi microfoni, ma va bene anche la radio. Me l'hanno chiesta, ma la do. Anche una buona offerta mi hanno fatto, 250 euro, ma non la do. Non la do. La nuova funziona non bene, non di più. Un attimino di bianco per me, dai, mi devo spostare da qua, ti prendo dopo. Kappa. Vabbè, queste qui non sono radio da vendere, perché poi va a finire che non si trovano più, stanno andando tutte a ruba quelle che ci sono, poi finiscono, non c'è più. Ah, poi no, non mi interessa, intanto ti vai a dire, ah, cosa compareggi, nuda, perché a me non mi serve più niente, io c'ho tutto, è arrivata anche la 5 bande, la verticale 5 bande, della, io ce ne ho 4 HF, cosa, non mi interessa più niente. Una, ce l'ho al centro assistenza, la ICOM, stanno facendo un lavoretto, arriverà la prossima settimana, non lo so, dopo le feste, ma non mi interessa. Ce li ho, va bene così. Giappa le gappa, quindi la radio va bene, ok, dai, va bene. Pure che queste radio fanno stazione, sono grandi, sono belle da vedere, oltre che essere delle buone radio, sono complete, grandi, e ci vuole un po' di spazio e basta, se tu hai lo spazio tranquillo, che ci sta bene, dai. Non è cambiato niente già, no? Io ho la mia stanzetta sempre adibita alla radio, tutte le cose che servono, le basi sono quelle, quindi di radio ce ne stanno, anche se sono due amplificatori adesso mi prendono un po' di posto, ma comunque già ce li ho fatti stare, la radio non ha cambiato nulla, sempre la stessa cosa, però adesso devo fare alcuni lavori e quindi sto aspettando appunto a montare definitivamente le antenne, poi quando ho terminato sono 9 di tempo come cazzo, per carità. E non dire a me che ho fatto la macchina per Natale, per non avere la macchina tosta a Natale, non ti stavo fatta, il giorno dopo si messa a piovere. Io già c'ho dentro il giardino, c'ho la spazzola che si attacca alla pompa. Con l'elettricivo, ma non lavo io, ma cosa lavi, tutto un pantano, tutto un casino, ma vabbè, l'inverno è così purtroppo, cosa ci vuoi fare? Va bene, la cosa che mi rincuora è il cane è veramente per i cacchi suoi, le apro la porta, esce, fammi anche adesso, è uscito, ha fatto la pipì, magari poi, non so, verso le 8 uscirà a fare gli altri bisogni. Io esco solo a raccoglierla, ma almeno non prendo freddo, no. Mamma mia, il freddo che ho preso col cane, cazzo, e tu io gli sai che cosa? Io tuttora sto andando, vabbè, quando c'è la comodità, fai così, certo, se no bisogna, vabbè, comunque, non sono tutte cose che sono negative, perché uscendo conosci gente, ti fa la chiacchierata, io ho conosciuto diversi ragazzi lì, ci facciamo la chiacchierata mentre i cani giocano e già è bello anche uscire a farsi quattro passi, se no stai sempre crissato in casa e non esci, invece così il cane ti sprona a uscire. Sì, già lo so, anche io lì ho conosciuto un sacco di gente, ma io ho abitato una vita lì, quindi non è che avevo molto da conoscere, capito? Però una chiacchierata, una cosa, però va meglio, lascia perdere, d'inverno va meglio, anche l'estate, mi aggaccio, mamma mia, poi il cane se lo vedi è rinato, sembra un altro sembrano toccare. Se tu immagini che quando era a Carbona si va a sta toccando le balle, perché ogni tanto gliela do, ogni 15-20 giorni le do l'antinfiammatorio per la schiena. Là ogni settimana glielo dovevo dare, ogni settimana. Qua da quando sono arrivato gli ho dato due volte. Soffre di dolore reumatico? Eh sì. C'ha dei dolori alla schiena che ogni tanto le vengono, ma grazie a Dio qua da quando sono qui da aprile non sono più venuti. E come te ne sei accorto? Si lamentava? Poverino, si lamentava. Ho dovuto venire Roberto a portarlo dal veterinario perché non si faceva toccare, l'ha messo nella lettiga dei cani. Siamo come noi, si prendono tutte le malattie che ci prendiamo noi. Pure io non sono messo bene, una mattina quando mi alzo sono tutta dolori, dai piedi sino al collo, tutta dolori, poi man mano che cammino mi ripristino tutto, però intanto la mattina come mi alzo sono un lucino. La mattina? Ehi, io sono tutto il giorno così. Tutto il santo giorno, io tutti i santi giorni mi devo prendere una pastiglia, qualcosa, un Brufen, una bustina, perché altrimenti la mattina non riesco a combinare niente. E qua c'ho sempre da fare, avevo il muratore una settimana, quella settimana è tempo bello, hanno fatto un sacco di lavori belli. Adesso avevamo deciso appunto dopo Natale, insomma, oppure Epifania, di riprendere qualche altra cosettina che ancora devo fare, sempre esternamente, per abbellire, però il tempo è brutto e poi io non ce la faccio a dare una mano, capito? Assolutamente, sono brutto, un bel male, sto aspettando che passi un po' queste feste, queste restrizioni, per andare a fare alcuni controlli più specializzati, specialistici proprio per la schiena. Appuntamenti non ce n'è. A me lo stai dicendo, sto aspettando quello per fare la visita oculistica ed è a settembre, dovrò farlo a pagamento perché il diabetologo mi ha richiesto visita oculistica, poi elettrocardiogramma, la visita per i reni e poi quella per le arterie. Ho fatto quella per le arterie solo e quella è la lastra al piede per vedere se c'è calcificazione delle ossa, roba del genere. Anche a me me l'ha richiesta. Io poi ho la fascite plantare a tutti e due i piedi, quindi uso i plantari. Questo problema alla schiena, che si suppone che sia andata in ernia del disco, perché non riesco a fare più un accidente, non riesco più a correre, non riesco più a fare niente, mi fanno male le ginocchia, mi fanno male i polsi, i gomiti, quindi devo fare una specialistica un po' più adeguata, perché mia figlia c'ha l'artrite reumatoide, quindi non si sa mai che ce l'abbia anche io, capito? E dalle mani come si è messo? Le mani diciamo che sono ancora normali, a volte mi fanno male le dita, a volte mi fanno male i polsi, a volte mi fanno male quando piego i pollici, devo fare una visita più specialistica, già più approfondita, però ti ripeto, mia moglie fa la visita oculistica e va a pagamento perché non c'è posto, non c'è nulla, prossimo mese. A me mi ha detto di aspettare a gennaio per vedere se si muove qualcosa, perché il policlinico non le stava facendo, se no io la facevo sempre al policlinico la visita oculistica, oppure andavo da Chiri a pagamento, agli punti, e pagavo 40 euro, lì è l'unico posto dove si paga poco. No, mia moglie ce l'ha al policlinico con Dona Era e paga 60 euro, però ce l'ha, mi pare, a febbraio. A pagamento al policlinico addirittura? Sì, 60 euro, se no dottor Spano 300 euro. No, e se prende la dottor Spano va da cosa Piccinini, che è molto più bravo. Ah, non lo so se c'è Piccinini o il figlio c'è, perché io ero andato a lui quando avevo avuto il problema agli occhi, all'occhio, io avevo avuto un'emorragia oculare al lavoro, mi aveva curato lui, sono stato in cura da lui, però mi aveva detto che andava via praticamente, che finiva. C'è il figlio di Piccinini, c'ha lo studio Sardegna, mi pare che sia quella lì, sì. Dove c'è la guardia medica, ce l'ha presente di fronte. Sì, sì, sì, ho capito, capito. Capito, ti ho infatti, non mi aveva detto che andava via. Ma dove andava via, però se c'è il figlio già va bene. È bravissimo, c'ha, non c'è uno studio, c'è un ospedale all'interno, poi fa anche operazioni lì all'interno, tutto qua. È bravissimo, io ho fatto una cena con lui e con la compagna. Oh, allora già lo conosci bene, dai, già va bene. Gappa gappa, va bene. Dai già, che mi metto a posto un paio di cosette qua, se ci siete ci sentiamo dopo, ok? Ehi, forse c'era qualcuno che voleva entrare, avanti, chi vuole entrare? Ma avanti chi vuole entrare? Sono affrusciati i piatti, no? Affrusciare sempre non andare a niente, per farsi vedere forti. Vabbè dai, già, ci sentiamo più tardi, ciao. Ciao, ciao, Cla. Attenzione 10, c'è nessuno? Sì, dammi il punto, dove stai trasmettendo? R, vieni, aspetta che ti vuoi, vieni avanti. Sì, vieni avanti. Sì, sì, sì, sì, sì, S5, radio 4, radio 3. Niente, Fabri. Asco, ciao Cla, come sto uscendo? Come stai uscendo? Ottimo, ottimo. Segnale tuo e radio Super 5. Sto provando il baracchino che è stata un'impresa, lo sto quasi terminando, poi non è che lo metterò a puntini, ma sembra che vada bene. Ma il bip c'ha per caso questo? Sì, non è questo. Vediamo se riesco a toglierglielo. Lo devi togliere. Ma forse questo non si può togliere, lo sai. No, cos'è quello? Il grasso brutto? No, il Superstar 3006 FM. No, non si può togliere, così mi aveva detto Gianni anche. No, no, no, questo è il Galaxy, si può togliere, questo c'ha l'interruttore. Quello glielo fai l'interruttore, se no è diretto da dentro. Sì, ho visto, ho visto. Aspetta, voglio vedere la differenza di segnale. Io, aspetta. Tieni portante fisso un secondo. E forse un po', poi proviamo anche con qualche un altro, aspetta. Provando. Tieni un attimo portante fissa, fa il favore. Sì, sta qua. Brava, sto uscendo, sì, sto uscendo, sì. Ehia, stai uscendo alla grande, ti ho chiesto se quello lì è quello tuo, il 3009. No, quello è il Pluto che c'ho, questo è un altro che ho recuperato da quei laboratori che li buttano, che non era da recuperare, ce l'avevano, me ne hanno dato tre e ne sto facendo uno. Ah, da tre ne stai facendo uno, già vabbè, se è quello già stai uscendo, alla grande. Ecco qua, va bene, adesso io guardo come smettere questo, io l'ho tarato come dice il manual service. Va bene, va bene, io sto andando con tutta la potenza del Galaxy. È da 15 a 18 watt. Ma già va bene, già va bene. Adesso aspetta, aspetta un attimino, VR2, faccio un'altra toccatina, vi ricordo sempre. È un bel baracchino, il 3009, io l'ho avuto, sia il 3006 che il 3009, sono delle bellissime radio. No, sembra già va bene, adesso questo lo pulisco bene e lo richiudo, perché poi era abbastanza, non aveva grossi problemi. No, ma va bene, va bene, alla grande, alla voglia va bene. Qui probabilmente hanno, ho ritrovato, mancavano i finali, poi ho messo il finale. Vabbè, ma se era da buttare via, lo tenevo in laboratorio, per che cosa? No, dalla Germania, Francia, non so, arrivano, intanto fanno questi stocchi di questi apparecchi e questi, quando arrivo mi sono spaventato, come era smontata, allora ho recuperato da una parte, solo i finali mancavano, però avevo il 16, il 1969 ce l'avevo, a parte diverso il finale, e quindi niente, ce l'ho messo dentro e ci stavo lavorando, quindi sembrerebbe che vada. Ah, grande, se li metti un microfono preamplificato, non ti hanno manca, quello. il microfono originale, non ce l'aveva il microfono, è quello del Galaxy originale. Sì, hanno lo stesso attacco, io. No, no, va bene. La radio è buona, ottima. Ma sai, c'ho un po' le cose girate. L'MC50 va bene su tutte e due, il 140 e il 430 numero 1, mica nel 430 numero 2 fischia, non ha giù preso qualcosa, anche con le micheline a zero. Lì bisognerebbe qualche condensatore dentro, inserirsi, fare prove. Toffa. Porca puttana. Adesso sono tutte e tre. Tutte e tre uguali, dico le radio. A due va bene. No, all'altra che mi serve proprio i chili non andare. Ma roba da matti. Ho dovuto inserire quel più 5, quello ti ricordi che hai modificato tu. È lì è una canonata. Ma non avevi anche un 60? Due ne ho di 60, ma uno ce l'ho sul 140, uno ce l'ho sul 430 numero 1, quello mio, l'altro 430 numero 2 e l'MC50, è stato fatto apposta, mica fischia. E metti il 50 nel numero 1 e il 60 nell'altro, tanto poi escono nella stessa maniera. Infatti così ho fatto, è l'MB+5 che c'è al connettore Kenwood, l'ho messo sul 701 della Kenwood in VHF, capito? Volevo fare tutto uno, ma lo prendo, un altro 60 lo prendo, e a Maragana lo biglio. Misteri della fede. Ah boh, aspetta che io devo dare una pulitina per fare due lavori, così poi lo chiudo, va. Vai, Fabio, già sono qua in stanza, io sto facendo alcune cosettine così leggerissime, mettendo a posto sto me. Che mia moglie mi ha rotto le scarpe, c'era un casino. Già sono qua, fai pure. Oh gappa. E ci nel frattempo il controllo della stazione di qua. Se cabasso sono io il più forte, poi saliamo su e ci sei tu. E Fabrizio nella valle. Forte l'accetto, Robè, l'importante ci sentiamo. Ciao, buonasera, ben ascoltato. C'è anche Fabrizio, però non so cosa stia facendo. Ah sì, sta chiudendo una radio e poi rientrava. Saluto anche a Fabrizio allora. E io mi stavo mettendo un po' in ordine qua, che c'ho questo armadio, è tutto pieno di roba, qualcosa la sto buttando via, ma che non serve, e il resto la sto mettendo tutta in ordine. Anche io ho allargato un po', la scrivania nella stanza radio l'ho appoggiata all'altra parte del muro, così ho più spazio per muovermi e poi devo fare altre modifichette in modo che sia più funzionale tutta la situazione. E si conferma. Sto andando sempre bene, si rompe come ieri, non ho toccato niente. Ma avevo più 35 radio chiara, è pulita, tranquilla, che radio è questa? Il Galaxy è stato un eco. No, stai andando forte, forte e chiaro. Forte e chiasso. Abruttuso. Oh, abruttuso, e neanche a metà c'è un microfono, già va bene. Comunque mi ho scaricato l'ultimo aggiornamento dei punti ripetitori, il Monte Rasu, il coso, il pone è a 123, lo cifri sempre a meno 600, hanno fatto la giornata il 22 dicembre del 2021 e poi ci sono altri punti a 5000, c'è questo ponte di 430 e 100, quello di Fiume Santo è questo, cos'è? 430 e 100, è dismesso da Giudito. Che cosa? È dismesso, è spento. E qua c'è scritto che sono attivi. Poi c'è quelli dell'acustica sono lo shift è a più 9004 sono. Quello di corte che è sopra Iaccio e l'altro lo stesso, quello a 430-150. E poi c'è un altro a 439-512. Monte Cervione e Corsica, più 9004. E vabbè, non li usiamo quasi mai qui, quasi, dico io non li uso mai. però ad esempio 430-100 è spento. Poi c'era, ti ho detto, 750 lo stesso è spento. Gli aggiornamenti sono sbagliati. Per avere un riferimento chiaro devi parlare con Walter o con Fabrizio, c'ha tutte le manutenzioni, tutte le cose, ma anche lui se ne occupa poco. Chi sa dei punti in funzione sia in V che lui e Walter. Quando senti a lui devi chiedere a lui e te li segni e poi te lo stampi nuovo. Sì, sì, no, questa è la giornata al 22 dicembre 2021, hanno riattivato anche Badi Urbara, c'è scritto, e poi l'Imbara più 5.000 li hanno portati, ce ne sono due, RU a 430-400 e a 430-725, uno c'ha il tonno a 88,5, l'altro a 74,4, più 5.000, li hanno modificati. 430-725, ma gente... L'ho preso oggi stasera, RU Limbara 430-725 più 5.000, sono 74,400. Vai, leggi bene, 430-075 è quello di Limbara, quasi identico. Cioè quello di Monterraso, quello di Limbara è 430-025. Io questi ho scaricato oggi, poi c'è, voglio provare quello di Abbasanta, se per caso attacca, a 145.612.5, e poi quello di Fiume Santo, che invece quello attivo l'R2 Alfa, 145.662.5. Certo che sì, ti ho detto che è attivo, 145.662.5, 145.625 che ha i punti, ok, poi 145.777. 787.5 dell'R7 Alfa, poi l'R0 a 145.600 e 145.687.5 che è l'RU3, l'R, sì, l'R3 Alfa che è quello di Alghero, che però è spento. Allora, quello di Monterraso 145.600 hanno cambiato il tono, adesso c'è scritto tono 123. Non so, ti ripeto, bisogna chiedere a chi bazzica da quelle parti, chi ha la manutenzione, ma non penso. Se sento a Domenico, però se senti a Domenico di MN sul R7 Alfa, glielo chiedi. Infatti voglio provare, dopo stasera più tardi faccio delle prove, vedere un pochettino, e provo anche quello della Corsica, Monte Cervione, quello è altissimo, speriamo che sia aperto verso di noi, solo per curiosità, quelli sono a 439.512 più 9.004, non so neanche se ci arriva questa radio con i turni così alti. Avanti il break. Guarda, per i cavi ti passo a Claudio, che lui è più pratico di me, è più esperto, se no c'è anche Fabrizio, però Fabrizio adesso non è in diretta, non sta facendo altre cose. Avanti Claudio per Mirko, buonasera comunque Mirko. Ho sentito poco fa Mirko, ciao Mirko, non ho capito cosa ti serve cavi, e io non ne ho cavi, no? Ti posso consigliare per te che non hai grandi pretese, una Camille, devi chiamare Media Globe, c'hanno la Camille a 3 euro al metro, non ti dico di prendo la Sassari perché ne voglio 6 euro. Ma non è da 1058, non è un cavo, è un cavettino per giocare. Comprati un 213 Mirde, è un buon cavo per la 27, ma dico per la 27 visto che tu non hai grandi pretese. Se poi devi andare in un cavo un po' più specifico e più buono di quello, vai sulla Camille. Capito? Però prenditi un 213, non so cosa dirti. Qua a Sassari sono cari i cavi, ordinali su internet perché qua a Sassari ti spellano. Ma quanti metri te ne occorrono Mirko? Quindi una ventina di metri. A quel punto ti prendo, come ha detto Claudio, una Camille H100 e vedi un po' tu, non saranno i 10 euro in più a farti a rovinarti. Quindi almeno c'è un cavo definitivo, te lo prendi. Se no ti prendi 213.000 da Fusaro, lo vendono, almeno ce l'aveva, ti prendi 20 metri di quello, poi se ne rimane qualche pezzo lo usi come spezzone, anche se è un po' rigido come cavo. Però se vai a ordinare la Media Globo, magari ti viene 1,50 al metro in meno, e più c'è il trasporto, c'è tutto, alla fine compensi che comprarlo qua a Sassari, magari ti costa 5 euro in più tutto il rotolo a 20 metri, alla fine tanto vale prendertelo qua. Ma la GBC Alghero ancora si trova. perché se c'hanno magari qualche avanzo del rotolo, magari diciamolo anche a buon prezzo, il 213.000, quello a norme militari, quello lì già va bene per la 27, è un po' rigido, però è un cavo molto robusto, nel senso come rivestimento, eccetera, non è di quelli da 13, dai, perché se metti un R58 e metta una ferituia, per dire, piegando, e perdi tutto quello che stai irradiando, non serve a niente, quello va bene per farti le ispezioni, dall'accordatore alla radio, 50 cm, non di più, infatti non va bene assolutamente. Poi se lo devi mettere all'esterno, conviene mettere roba grossa, perché almeno è protetto. Poi se vuoi fare ancora il salto più grande, come ha detto Claudio, usati quelli H100 o H1000, vedi un po' tu, che sono un po' più morbidi. È un buon cavo quello, almeno non hai perdita e poi il guadagno è buono. Le interferenze, quel REM, insomma, il cavo va gestito bene, come le antenne. Non dico le radio sono tutte belle, performanti e funzionanti, però se poi uno ha un'antenna del cacchio e un cavo del cacchio, allora il discorso si cambia. Beh, per forza, perché un cavo che non serve a niente, Mirko. È un cavo che non serve a niente, ti consiglio un 213 oppure un H1000, un H100 per il barchino è più che sufficiente, ma non un 58. Registrato, salvate il break. Allora, buonasera a tutti, doppio ruolo, mi auguro a tutti. Ciao Roberto, avanti. Ciao Gianni, ben sentito, vai Claudio. Ciao Gianni, di nuovo ben riascoltato. Mi sembra aver registrato un break in lontananza, non mi vorrei sbagliare, vediamo un po' che è avanti il break. Sì Pietro, io ti ascolto, basso ma ti ascolto. Hai detto Dalghero? Ciao Pietro, non ti do ben ascoltato, sei Santiago 1, la radio è abbastanza buona. Non so se ti ascoltano gli altri, perché insomma, ascoltarti Dalghero con un antennino di macchina interno dentro casa è un po' difficile, però le mie condizioni evidentemente sono molto molto elevate, perché a questi livelli, vabbè. Dietro Dalghero, per chi l'ha ascoltato, avanti Roberto. Sì, lo ascolto Pietro, di segnale 6-7, mezzo a QRM, però ti tiro fuori. Ma sei Pietro quello che ci siamo ascoltati ieri in bande amatoriali, confermi? Sì, ho detto qualcosa però non ho capito, cosa hai detto Pietro? Ha detto confermo, Cassano 6, Santiago 7 e non intendi, Gianni tu lo senti a Pietro? Io lo sento Santiago 1, la radio è molto bassa. Pietro, hai sentito qualcuno di loro? Roberto, Gianni? Beh, che siano più bassi di me, questo senza un vero dubbio, ma non per presunzione, ma per la zona. Però se li hai sentiti va bene lo stesso. Sì, sei Pietro, io sono Claudio Sparviero, sì, sono un tuo collega radioamatore come Roberto. Ti ho sentito da poco che parlavi con Domenico, mi sembra, sulla R7 Alfa. Avanti, Roberto. E Pietro, se riesci a sollevare appena la radio, il segnale c'è, anche se sei in mezzo al QRM, però dovresti alzare un po' il livello microfonico, perché certi passaggi quando c'è la scarica di QRM non riesco a capire, se no già ti sento discretamente. Ok, di nuovo a te Pietro. Dai, qua. Sì Pietro, questo è, adesso ti mando avanti Gianni. Non lo so, Mirko dice che ha problemi sul cavo, RG58, che a volte dà dei problemi perché è molto fine, secondo dove lo metti, magari capito, prende umidità eccetera, quindi gli ho consigliato un cavo leggermente più grosso, però io non so esattamente cosa usi di alimentatore eccetera, va bene, avanti Gianni. I tuoi consigli sono giusti Claudio, ma io la RG58 l'ho avuto 12 anni, problemi non me ne ha mai dato. Diciamo che perde un po', però andava bene lo stesso, non è che è un cavo che prima usavano tutti quello. Poi sono usciti gli altri tipi di cavo, 213, tutti gli altri, vabbè, sono migliori come cavi perché sono più grossi, sono più, hanno la cazza più grande. Però la RG58 io l'ho avuto 12 anni e non l'ho mai cambiato. Io l'ho avuto per 10 anni quando ho iniziato a parlare, poi chiaramente avevo messo il RG8, poi il 213, poi ho tenuto il 213 per tanti anni e poi sono passato all'H1000. Adesso è già da un po' di anni che uso l'H1000. No, ma non è perché è un cavo che se uno si accontenta va benissimo, per carità, però lui essendo in campagna magari c'ha più umidità di te messo in una maniera diversa, magari buttato per terra, perché lui l'antenna ce l'ha sicuramente come me nel giardino, anch'io il cavo ce l'ho interrato, per esempio, perché l'antenna è attaccata al muro del giardino e il cavo ce l'ho interrato col corrugato sino ad arrivare dietro il caveria dove c'è la finestra che entra lo spezzone, sarà un paio di metri. Però è un cavo che va sempre custodito quando sei in campagna, capito? Se tu butti un 213 così ti dura di più, perché è più grosso, più robusto. Se butti un RG58 così, un po' d'umidità anche della notte, delle cose, in mezzo all'erba, in mezzo all'acqua, piove, ti si incasina, capito? Perché è molto sottile, solo per quello glielo ho consigliato. Vai, Robert. Registrato. Sì, registrato. Sì, infatti no, il problema delle RG58 più che altro se lo tiene in campagna qualche topolino, qualcosa ti cade sopra, eccetera, lo scheggi la guaina esterna e purtroppo poi fai danno e rovini tutto. Avanti il break. Sì, qua c'è il buonasera Roberto, buonasera a tutta la ruota e auguri a tutti, Chioda Rubinuto, operatore Claudio, QTH di Muros, buonasera a tutti, riprendi Roberto. Ciao Claudio, ti rinnovo gli auguri, ben sentito anche a te, e ti rilancio a Claudio. E poi farà girare per Gianni e per l'amico Pietro di Alghero, non so se lo ascolti, vai prima Claudio, poi Gianni e poi Pietro. Questo è lei. Ciao Claudio, buonasera, ben ascoltato e di nuovo tanti auguri, buone feste a tutti, sia a te che a quella famiglia. Ti sento un po' cupo, non so se questo è un Galaxy Saturn Echo che riceve così, però mi sembra la tua modulazione un po' cupa, poi mi confermeranno gli altri, non è bella pimpante come sono abituato a sentirti, segnale il tuo. Vediamo un pochino Alghero, allora Pietro, hai sentito Claudio da Muros? KQSL Pietro, ti auguro un buon fine serata, buon tutto, grazie per essere entrato, cordialità, ti mando allora anche i saluti di Claudio di Muros, che l'ho arrugginito, che non ascolti. Allora il cambio per Gianni doppio room e poi a girare la ruota per i saluti a Pietro, vai Gianni. Dai, io saluto a Pietro e anche a Chiodo Ruginito, gli faccio i migliori auguri a lui e a tutta la famiglia. Avanti Roberto. Sì, stavo per salutare a Pietro. Ciao, ben sentito, avremo modo di riascoltarci anche su altri tipi di frequenze. Dai. Buon tutto, buon proseguo di serata Pietro. Ciao, ciao. Vai di nuovo Muros. Sì, questo è Roberto. Sì, anche io l'ascolto a Pietro, probabilmente la zona è favorevole per me, anche per lui, capito? Perché per Alghero io di solito ho delle grosse difficoltà, molte a farmi ascoltare, anche a sentire gli altri. Quello che riesco a sentire è più forte di tutti, l'Alghero che mi arriva a Santiago 1 e Mirko è quello che modula dentro ogni tanto, sì, quello che arriva a Santiago 1, la radio 5 è buona, però gli altri proprio non riesco ad ascoltarli. Comunque un super saluto, fatemi da Ponte Radio, me lo salutate da parte mia. Ho passato appena appena il Mighty Game, il microfono, Sparviero, va bene adesso? Sì, Claudio, ma stai usando il più 5? Cappa, no, negativo, sto usando l'SPE console 2, capito, col microfono SPE 100X da tavolo, che me l'hai dato tu, quel microfono, che babbo l'ha sistemato, gli ha sistemato la capsula, sì, ce l'avevo troppo alto, capito, c'era la rotellina a 10, probabilmente si era portata, come l'ho preso dallo scaffale, adesso l'ho portata a 6,5 la rotellina, l'ho portata e sto usando il lineare, quello che mi hai dato tu sempre, quello degli anni 70, una valvola che è di 30 watt, claro, è messo a massima potenza, non più altro, e non so come il Santiago, ma penso che sia anche ti arrivando bene, dai, riprendi. Una canonata, 9 più 40, radio 5 adesso, sì, infatti era troppo alto il microfono, quindi tendeva un po' a essere cupo, adesso la radio va benissimo, è ottimo quel lineare, ma poi è una figura un po' particolare, proprio un lineare degli anni 70 che si usava a quei tempi, mi ricordo, Robert, praticamente è tipo la cassa della Clio Kenwood, capito, Robert? Molto bello, sì, molto bello, colore grigio Kenwood, va bene, celeste mi pare che sia anche davanti, insomma ricordo, comunque è un bel linearetto, sì, le passioni vintage, non avevo dubbi che le portavi avanti, che altrimenti sarebbe rimasto tutto dentro l'armadio buttato senza mai usare, invece tu li usi e sono contentissimo che li usi. Vai Gianni del Perrut. ma che linea è questo qua, valvolare a 30 watt? Non lo conosco, che tipo, non è lo Speedy? No, lo Speedy, questo è forse uno dei primi lineari che sono usciti, è una valvola, è grande, è più grande dello Speedy, è più grande dello Speedy, però c'è una valvola, se la valvola è a posto da anche una cinquantina di watt. Capito, è un po' più grandetto del BV131, ma è fatto in una maniera particolare, proprio anni 70 già, capito, no, non è di quelli. Io l'avevo preso ad una fiera vintage, ma ce l'avevo un secolo dentro l'armadio, tutto sempre conservate queste cose. Poi quando mi sono trasferito ho messo tutto in fila, ho riempito il cofano e ho portato tutto su al museo da Claudio. Molto bene, avanti Robert. No, bene, ci sta facendo bene. Da me il segnale non vuoi più vedere. È chiara, pulita, dai. Il telefono, vuoi scusate un attimo. Ambulanza, cazzo, ma sempre che tu la vengono appigliati, vai qua. Sì, 5 stelle, Paolo 5, prendo io, Roberto, probabilmente l'hanno arrestato. Sì, quel lineare è molto bello, ma l'ha tutto restaurato, poi l'ha fatto al burro, non so se l'avevi visto, gli ha cambiato lo strumentino, ma là perché il tuo non andava, capito, gli ha messo un altro strumento. Proprio il 34 non tira, è fatto così, però quello uso con il console, lì con il contact, con le radio vecchie, con i 23 canali, uso questo perché non due nella postazione lineare, io uno di 200 watt che me l'aveva dato Fino Muscolo, me l'aveva venduto, e poi c'ho questo che mi ha dato due, capito? Con questo me lo uso con i 23 canali, con i vintage, molto grazioso, e come è fatto, si fa sentire per avere solo 300 watt, la prova usando l'accordatore esterno, e capito, è quello della ZG, perché capito, ogni tanto quando piove mi salgo in meccanismi stazionari, quindi mi accorgo, così mi tira tutta la piena potenza l'antenna, riprendi. Ecco, controllina. Avanti. 1, 2, 3, prova in modulazione, c'è rotto la ruota. Cattello per Radio 5. Io ci bacio, Zarezzo. Ok, allora riprendo io, va bene, ciao a chi è entrato, io non l'ho riconosciuto, non ti sei presentato, quindi non so chi sei, comunque buonasera, ben ascoltato, Santiago Nova, Radio 5, idem e compattate. Roberto è al telefono, no vabbè, ma anche 30 watt vanno bene con quelle radio, perché sono ottime, no? Non c'è problema. Io sto andando con Saturneco e la potenza è 15 di portante, 18 modulati, quindi punto alla massima potenza di questa radio, però vedo che funziona ancora bene, la uso pochissimo, però anche questa è da usare ogni tanto, c'ho il commutatore a 5, quindi ogni tanto le faccio girare. Allora, il cambio per l'ultimo entrato, vediamo se riesco a riconoscere chi è avanti. Avanti? Gianni, riprendi tu. Si deve essere sentato, forse c'era qualcosa che non andava, qua arrivava a 9, non so cosa sia successo, kappa, e vabbè, chiedo arrugginito, come ti sta arrivando lì a Muros? Kappa, doppio room, Santiago 9, radio super 5, molto bene, stai arrivando, super la modulazione, limpida, non è molto, come si dice, molto telefonica, poi ti ascolto molto bene, Santiago 9, radio 5, già, questo è il tuo rapporto di Santiago qua a Muros, riprendi. KK, sto scendendo in mono. Cosa stai uscendo in? In mono, ha detto che non è stereofonica. Sto uscendo in mono. Sì, arrivo bene, già, non volevo dire che sta uscendo male, però arrivo bene, dai, non è molto eccessiva però la modulazione. Ho sentito un break sotto, mi è arrivato a Santiago 1, avanti chi vuole entrare. Io sono rientrato. Ciao. Chi c'è? Qualche donato nuovo? Ho sentito chi vuole entrare. Non so, ma stanno parlando Claudio. Sì, quando è entrato Roberto, avanti chi vuole entrare su 10, però buonasera, avanti. Adesso lo riprende, prova a farlo venire avanti tu, la Maria che ti sente, perché magari era ad Alghero sicuramente, prova tu a vedere. Oh, avanti chi vuole entrare sul canale 10? No, io non sento nessuno qua. Oh, entrano e si fanno sentire, siamo, non è lo stare a parlare come sordo mutti. Avanti Robert, riprendi tu allora, eh. No, è entrato qualcuno, però io non l'ho riconosciuto, ho cambiato radio e non l'ho riconosciuto, non ho detto chi era, però non l'ho riconosciuto, riprendi tu e fai girare, dai. Qui siamo io, tu Claudio di Muros e Gianni Doppio Rum. se c'è qualche donato che vuole entrare, avanti, se no accetta per sempre, come dice qualcuno. Avanti Gianni. Beh, faccio un attimino di fianco per vedere se vuole entrare qualcuno. C'era amico poco fa che stava andando a prendere le indicazioni, le informazioni su quel cavo che le hai detto tu Claudio, ma tra l'H100 e l'H1000 a livello di prestazioni, non parliamo di dimensioni, cosa cambia? Non me l'ho visto le prestazioni. Ma l'H1000 è molto più robusto, molto più selettivo come cavo, c'è anche meno qualità. L'H100 è tipo il 58, leggermente più grosso, però fa il suo lavoro, è un buonissimo cavo, per carità. C'è anche l'H150. È il 1500, guarda, c'è l'H1500, è possibile, l'abbiamo visto da qualche parte. Ma no, non so, c'è la tabella, io adesso non ho voglia di andare a prendere, c'è una cartella dentro l'armadio, vi sono appunto la tabella dei cavi e tutto, ma mi sembra che esista anche quello. Ma ti ripeto, io ho preso l'H1000, ne avevo preso una matassa da 100 metri, fate il conto, l'avevo divisa per i 50 metri che ho usato, adesso qua praticamente da 50 metri ne ho usato solo 15 metri, perché chiaramente sono a piano terra, è tutto diverso da come era prima, per un'antenna. Altri 15 li ho usati per l'antenna VU e altri 15 li uso per l'antenna, per quella, insomma, la 5 bande, quella che devo montare, capitolo? Beh, però io l'H1000 ho comprato. Avanti Gianni. Io ce l'ho l'H100, Roberto. Ma io ti dico la verità, io non ho trovato nessuna differenza di segnale tra l'RG58 e l'H100, ti dico la verità, stessi segnali. Ma la cacciata probabilmente ha una protezione superiore, di nuova generazione, materiali diciamo più efficienti, vari, c'è anche la protezione in alluminio, oltre che avere la schermatura, cioè la calza è più fitta, perché se prendi certi RG58 la calza è trasparente, nel senso è come che non ci sia. Poi ho visto con l'1000, io avevo preso il 58000, l'avevo messo per la bimanda piccola piccolina, però rispetto all'altro RG58 era una fugavo, sembrava. Sì, c'ha la stagnola, oltre la casa c'è la stagnola, capito? Sì, è fatto meglio, senza ombra di dubbio, però io ti ripeto, ho avuto 12 anni nel RG58, non ho mai cambiato. Quando l'ho tolto, sì, era un po' insecchito, perché vabbè, c'aveva i suoi anni, però all'interno era buono, non era annerito, capito? Già, ma tu stai usando l'H100? Sì, ho l'H100 io. Il centrale, secondo te l'H100, il filo centrale è uguale all'RG58? Guarda, non lo ricordo se è come l'RG58, però mi ricordo che c'è la calza che è superiore. Ma a parte la calza, il cavo è completamente diverso, perché il centrale dell'H100 è rigido, non è a filetti, a filettini come l'RG58, già, è un altro tipo di cavo. Ma non parli di segnali, che tu cambi il cavo e aumenta il segnale. La perdita, capito? Se tu stai usando 10 watt con la radio, no? Ti faccio un esempio, 10 watt, hai 15 metri, 20 metri di RG58, in antenna, a te ne stanno uscendo 5, mentre invece se tu hai un H100, un H1000, un cavo buono, se hai 10 watt, in antenna te ne possono uscire 9, ma non hai tutta quella perdita, capito dove è il problema? E dovrebbe essere superiore anche il segnale. Ma sicuramente, però varia poco, perché tu sai benissimo, no? Queste prove abbiamo già fatte, da 5 watt a 10 watt non è che cambia molto, inizia a cambiare da 10 a 20 a 30, allora la vedi un po' la differenza, io poco fa te l'ho fatta la differenza, visto quanto è minima, eppure c'è una differenza da 5 watt proprio a zero completamente di potenza, al massimo che sono 15 watt, c'è poca differenza, capito? Tu immaginati da una perdita di potenza da 5 watt a 9 watt, cosa già, ma sono 4 watt in più, non ti cambia, però è meno QRM, l'antenna funziona meglio, la radio è più silenziosa, tutte queste cose, capito? Io ho l'H100, quello grigio. Sì, lo conosco, io il mio è nero, io ho l'H1000 che è nero, però ripeto, un altro tipo di cavo, è leggermente più o meno come il 213, ma molto molto robusto, la guaina è grossissima, la devo tagliare con la taglierina, io quando faccio il PL, la calza è una doppia calza, arriva rivestita con l'alluminio e il centrale è molto grosso, capito? Però sono cavi che noi radioamatori usiamo anche per avere più sicurezza nelle radio, nelle antenne, nelle potenze che usiamo, ma per la 27 va bene anche per dire un 58, un H100, un H110, un H150, cavi così vanno più che bene, capito? Perché un H1000 già inizia a costare a 4 euro al metro, insomma, per usarlo con un baracchino è già un cavo sprecato secondo me, ma per usarlo con HF va bene. L'H100 è un ottimo cavo per usare il 27. Vai muro Zo! Sì, 5 stelle Barriero, sì, prendo io, sì, io di cavo uso un RG213, quello che sapevi, non andando poco facile, è un buon cavo, mi trovo abbastanza bene, invece prima cavo 208, che era appena più fine, quello, andava bene che quello, solo che ho cambiato quando avevo l'antenna incasinata e ci ho messo questo 213, e cosa ti volevo dire altro? Sì, quello comunque che stava modulando sotto era quelli di Occhieri, il Lima 1, ho sentito la voce di Lima 1 sotto, quando stava arrivando Giorgiano 1, e probabilmente lui che sta parlando con Giovanni, non so se riesce a sentirlo, e poco fa quando avete capito e ricambiato per Gianni, che Gianni ha ripreso dopo un po', ho sentito la voce di Lima 1, e capito, sì, 213 è un buon cavo comunque, riprendi doppio rumbo. Ma rimane più rigido, per dire, se nelle strumentazioni lo metti l'ispezione di RG213, si muove tutto, è un macello, invece questo che ho io è più morbido, rimane più morbido, poi dipende sempre dalle esigenze, naturalmente. Io preferisco quello morbido, il cavo di quello che tu come lo metti resta senza far muovere gli strumenti perché è troppo grosso, troppo pesante. Guarda, il 213. No, questo già è molto morbido, la camilla è molto morbido, io vabbè non è che c'ho molte curve, ne ho due che arrivano al commutatore, sia quello HF che quello VHF, basta, poi il resto sono tutti, c'è un cavo diretto e basta, capito? Lima 1, no, non è arrivato qua, no, non arriva qua, ma stava parlando poco fa. Sì, probabilmente sta parlando con Giovanni, è per lì sicuro, perché ce ne sono molti, io modulo ogni sera, ogni tanto entro, quando faccio qualche passaggio, poi devo fare spostare dal 10 e farmi salire almeno sul 40, perché in banda laterale solo riesco a sul... Stanno solo modulando. Ho capito che anche il cugino di mia madre, Giovanni, è purtroppo in AM, non lo sento sul 10, quindi lo devo fare salire almeno sul 40 e farlo passare in banda laterale, e mi tiro fuori tutti e due. Quel gioco lo faccio con loro sul tardi di notte, che sono 10:30, capite, finiamo di solito a mezzanotte, capito, si sta parlando, però mi aveva detto che quando modulavi a te non ti sentiva, mi aveva detto, perché siccome mi aveva detto, siccome sapeva che eri cambiato il caso, no, capito, e mi aveva detto che dalla posizione che c'è adesso non arrivi a tiri proprio, perché mi aveva anche mandato un conto, proprio già solo QRM proprio sul 10, praticamente molto il canale, l'unico che sente è a me e un altro di salsa, io già quello, come si chiama, radioamatore a Fabrizio, credo che senta, però gli altri proprio non li sente, è riuscito poi a parlare con Giulio una volta e con l'altro, come si chiama, Marino, mi pare, ha parlato con loro solo, però gli altri non gli arrivano proprio, e intanto ci parlo io ieri, ci ho parlato anche l'altra sera, mi pare che sia la settimana scorsa, capito, e abbiamo fatto un QSO, abbiamo, e ogni tanto si fa sentire Lima 1 con me, cosa che volevo dire, quell'antenna, ti volevo fare una domanda su quell'antenna, su quella G-Fold, della Smartec, ma come si chiamano le apero di radiali, quindi? No, l'accoppiatore praticamente a 2,50 m, sino a 2,50 m sono due antenne, e poi parte lo stilo sino a 8,50 m. Come fa a non sentirmi se arrivo a Buduso o Santiago? Vabbè, saranno problemi sui. Non è un problema mio, arrivo a portare a Buduso una schioppettata da qua, quindi non capisco come facciamo a sentire. Io non lo sento, prima lo sentivo Santiago 3, mi pare, quindi saranno problemi suoi, non problemi miei di certo, capito? Non lo so, vabbè. Comunque se modulano sul 10 io non li sento, quindi non mi danno fastidio. Se li senti tu falli spostare tu, qua non arriva neanche lui. Prima arrivava Santiago 3 a Sassari, nell'altra postazione, qua no, non lo sento per niente, quindi sicuramente c'è qualche vato che ci copre, però io su Budusò, Patale, alla De Sardi, sino a tutta la zona di Dioschiri copro molto molto bene. A chi tocca? Avanti il Robert Ripetti. Ehi, allora, quello di messo il pallone c'è quello morbido che è più fino delle G213, ma cazzo, sta guardando i prezzi, 19,50 al metro costa, e il minor capo che c'è in circolazione di quelle dimensioni, su classe a tutti gli altri, quello morbido morbido, ho visto, c'è la fotografia su Radio Rivista come è costruito, ma è, cioè, c'ha 19, il centrale è costituito da 19 conduttori incrociati, più c'ha la treccia di rame ti spaventi da come è fatta, 144 fili solo di treccia, più c'è la schermatura, una cosa allucinante quel capo. Ma lei c'è un 213 che è favoloso, io ce l'ho, quello che avevo prima che poi ho tolto e ce l'ho conservato perché è nuovo nuovo, ce l'ho appeso nel magazzino del Cavedio, e lo stesso a treccia di rame, la punta è a treccia di rame, molto molto robusta, la calza è doppia, una doppia calza, favoloso. L'avevo preso, non mi ricordo dove, non certo a Sassari, ma era un cavo eccezionale. Io ce l'avevo quando avevo le direttive, avevo tutti gli spezzoni che andavano al commutatore dell'antenna, quello che ho dato a te, e la discesa era uguale, avevo un'unica discesa per le HF, e ti dico che funzionava molto bene quel cavo, ed era molto molto robusto. No, no, io ho la Camille, ti dico, 50 metri, ho fatto 3 calate, va più che bene, no? Non mi interessano anche gli spezzoni interni di H1000, il 213 l'ho tutto eliminato e va bene così. Avanti Gianni. E vabbè, lo so, ce ne sono che sono migliori, eccetera, però va bene anche questo qua. Vedo che questo va abbastanza bene. Vediamo un po' se è entrato, rientrato l'amico Alghero. Attenzione Alghero! Ma chi è che sta mettendo a portare? Ah, già ne so, gli avanti lo vedono male anche tu. Quando stava parlando Muro, se arrivava la portante lo superava, lo schiacciava. Ma lo vedo a te, no, qua Claudio non schiaccia più nessuno. Qua Claudio forse alla pari di Coso, di Carlo, 9 più 40 arriva, no? Claudio qua. Prima arrivava 9,20 a Carbonazzi, adesso qua è 9 più 40. Anche qua arrivano poi 20, però il segnale che dava portante era più forte, infatti non si è trattenuto molto, però un paio di colpi li dava ogni tanto. Adesso c'era questo fischio, chi è? Avanti che vuole entrare. Questo è lui. Forse non sta uscendo, non lo fa apposta. Claudio, tu sei? Caspa, no, non sono io, Roberto, io sono il QRX, però della vostra zona, a me mi arriva Santiago 7, questo segnale, però non sta uscendo perché tutto a fischi e boh, facciamo rivolgere avanti a vedere, riprendi e vediamo se riesci a farti ascoltare, dai, riprendi. Lo senti tanto? Sì, certo lo sento, quando ti arriva